Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Buonasera a tutti da Stefano Dainese, benvenuti a Rock Wave. Se sentite qualche chitarra in sottofondo non vi preoccupate, perché abbiamo dei musicisti qui che si stanno attrezzando per suonare dalle 22:30 in poi, l'orario solito di Rock Wave. Avremo Fabrizio Cammarata e Marco Petrigno che suoneranno, li intervisterò, ascolteremo il loro bellissimo disco intitolato Rooms, ma questi 25 minuti in più sono per una parentesi, un'intervista telefonica che faremo fra breve, fra l'altro con un loro conterraneo, una puntata interamente siciliana questa. Si tratta di Cesare Basile, che ci parlerà di un'interessantissima cosa che stanno facendo, un progetto di recupero di un antico teatro a Catania, una cosa che credo sia anche un unicum, non avevo mai sentito di un'iniziativa che parte dal basso per recuperare una struttura del genere. Adesso ne parleremo appunto con Cesare, e intanto però, così, per chi non conoscesse Cesare Basile, ci ascoltiamo un pezzo dal suo ultimo album che si intitola Sette pietre per tenere il diavolo a bada, e il brano si intitola Sette spade, e dopo saremo in diretta telefonica con Cesare Basile. Grazie alle sette spade chi ha piantato, la colpa si è venuta a presentare. Leva le gambe tue da questo regno, ti ha preso il fiato e ti ha rotto l'ingegno. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Così alle otto le han tolto la strada, mentre cascava il cielo alla collina. La lingua ti diceva aiuto, aiuto, alle otto e mezza porti la ferita. Le mangia terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Le mangia terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Le nove il petto le ha strappato e gli occhi, e non c'è stato santo né comunione. Grazia che compassione chiedi al fango, il fango ha sette lacrime di pianto. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Le nove e un quarto hai avuto il tuo dovere, sparata in testa gloria dei ruffiani. Sputata come cane dai signori, le nove e un quarto hai avuto il tuo dovere. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Due giorni dopo le brave persone passarono da casa a visitare. Ognuna aveva in bocca carne e pietre. Due giorni dopo le brave persone, le mangia terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Tu mangi terra e loro mangian pane, sorella mangi terra e loro pane. Blu Radio. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. Bene, abbiamo ascoltato questa canzone di Cesare Basile, adesso dovremo sentire anche la sua voce al telefono. Sono qui. Ciao Cesare. Buonasera a tutti. Benvenuto a Blu Radio Veneto. Allora, io ho annunciato così genericamente ai nostri ascoltatori che tu ci parlerai di questa cosa molto interessante, questo progetto di recupero del Teatro Coppola, che è in centro a Catania, giusto? Sì. Sì, è in uno dei più antichi quartieri di Catania, il quartiere Civita. È anche il teatro, in effetti, fra i più antichi teatri di Catania, nel senso che è il primo teatro comunale che è stato costruito a Catania nel 1821. e poi insomma ha avuto una vita travagliata fino al 43, quando è stato distrutto dai bombardamenti americani. E diciamo, nonostante svariati tentativi di rimetterlo in piedi negli anni successivi, sempre finiti male perché i fondi venivano stornati su altre attività lecite o illecite, come uso delle amministrazioni, alla fine è diventato una sorta di deposito usato per un po' dal Teatro Massimo Vincenzo Bellini come laboratorio scenografico. E poi è stato vittima dell'ennesimo scandalo, perché doveva essere riconvertito in sala prove dell'orchestra, sono stati stanziati 225.000 euro, ma ovviamente questa ristrutturazione non è mai stata portata a termine e il posto è rimasto chiuso fino al 16 dicembre scorso, il 2011, quando insieme ad altri cittadini e lavoratori dell'arte abbiamo deciso di aprire il portone, occuparlo e restituirlo alla città, avviando appunto questo processo di ricostruzione, perché nei fatti quello che noi abbiamo trovato ovviamente non è più un teatro, ma era soltanto un capannone distrutto con un cantiere in abbandono. Era proprio questo che mi chiedevo, scusa se ti interrompo, sì. Ho guardato sul sito, ma la struttura in questo momento, perché ho letto appunto è stata bombardata dagli americani, quindi era andato giù anche il tetto, per dire, nel 43? Era andato giù anche il tetto nel 43, poi il tetto era stato ricostruito quando avevano deciso di farlo diventare questa sorta di deposito scenografico per il Bellini. Per cui diciamo che le pareti e il tetto al momento ci sono. Tutto quello che dal 16 dicembre a oggi è rientrato qua dentro, per cui il palco, le quinte, i servizi, la pavimentazione, le sedie, l'abbiamo fatto noi e stiamo continuando a farlo. Nel senso, ci siamo assunti, diciamo così, un dovere e allo stesso tempo anche un diritto, il diritto di riaprire un posto che era stato negato dalla burocrazia che aliena continuamente i beni pubblici e i beni comuni, e noi lo abbiamo e lo stiamo restituendo alla città, e soprattutto lo stiamo usando esattamente come i contadini una volta chiedevano il diritto di appropriarsi dei campi incolti. Noi ci siamo appropriati di un teatro incolto, ecco, questa mi sembra una metafora calzante. Quindi sì, beh, giustamente il teatro è della cittadinanza in senso ampio, insomma, dovrebbe essere il teatro è della bene di tutti i cittadini, ma sì. Al momento a livello di agibilità la struttura viene utilizzata per concerti, per spettacoli? Sì, noi abbiamo cominciato a fare spettacoli da subito, dopo una settimana dal nostro ingresso. La prima cosa che abbiamo ricostruito è stato il palco. Se c'è un palco c'è un luogo per fare spettacolo, e questa è stata la prima cosa che ci siamo detti, è stata la prima cosa che abbiamo ricostruito. E poi a poco ci siamo preoccupati di metterlo innanzitutto in sicurezza, diciamo che a un controllo ufficiale non ci verrebbe riconosciuta l'agibilità, però nei fatti ci preoccupiamo di garantire la sicurezza delle persone che entrano qua dentro. Abbiamo lavorato bene sull'impianto elettrico, stiamo lavorando appunto sui servizi che sono già quasi pronti e sono anche tanti. Tu parli al plurale, c'è un'associazione? No, fondamentalmente c'è un comitato spontaneo, ci muoviamo in assoluta autogestione, c'è un'assemblea che gestisce il posto, che prende le decisioni, che si confronta con i problemi, è un'assemblea aperta. Questa occupazione, liberazione è assolutamente inclusiva e non esclusiva, non ne abbiamo fatto il nostro posto. Cioè noi ci siamo soltanto, diciamo così, come dicevo prima, assunti l'onore di entrare e cominciare a lavorare. In questo momento, tra l'altro, mi avete chiamato e, come ti dicevo oggi pomeriggio, siamo proprio in assemblea di gestione, le facciamo ogni lunedì, le persone vengono. Scusa Cesare, abbiamo qualche problema di ricezione purtroppo. Ho detto che appunto questo posto è gestito non solo dagli occupanti, ma dalle persone, dalle associazioni, dai singoli cittadini che vengono ogni lunedì, propongono le loro attività, propongono i loro spettacoli, quello che vogliono fare, e noi ovviamente ci premuriamo di metterli insieme e di realizzarli. Suppongo che gli spettacoli servano per raccogliere i fondi che poi vengono utilizzati. Gli spettacoli servono per raccogliere i fondi, noi non mettiamo un biglietto d'ingresso, tutto è, diciamo così, frutto di donazione. Noi chiediamo alla gente di donare qualcosa, può essere un'offerta in denaro, ma puoi anche venire a vedere gli spettacoli portando due sacchi di cemento. L'importante è proprio sviluppare questa economia del dono, ecco, diciamo che lo stiamo ricostruendo attraverso l'economia del dono quest'anno. Non mi risulta che sia mai stato tentato una cosa del genere finora, potrebbe essere un'iniziativa da copiare, perché credo che in molte città italiane ci siano delle strutture in condizioni magari non bombardate, ma insomma... No, ce ne sono tantissime, credo che è un discorso molto semplice, no? Ovviamente quando ci pensi all'inizio, anche noi prima diciamo, ma ci stiamo imbarcando in un'opera faraonica, cioè non ce la faremo mai. Però poi nei fatti, quando ti trovi all'interno del posto e vedi che le persone rispondono, vedi che fai gli appelli e ti cominciano ad arrivare 15 sacchi di cemento, le mattonelle, i mattoni, le latte di colore, allora dici, boh, ne vale la pena, forse basta soltanto cominciarle le cose, no? Ed oggi più che mai credo che questa maniera di confrontarsi attivamente con la cittadinanza, cioè col tuo essere cittadino, sia una risposta forte, un segno di, come dire, di ribellione altamente costruttiva e di partecipazione politica e proposta politica nuova. Avete avuto quindi un riscontro importante da parte della cittadinanza, mi pare di capire. Direi di sì, nel senso che non ci aspettavamo una risposta simile. Non parlo soltanto delle persone che vengono a vedere i concerti, ma delle persone, i concerti degli spettacoli in generale, ma delle persone che ci hanno dato una mano, degli manovali per esempio, cioè muratori del quartiere sono venuti e hanno detto, noi quando non lavoriamo, veniamo qua e vi diamo una mano. E questi, capito, quando hanno la settimana di buco nei loro lavori, visto che il lavoro ormai ce n'è poco per tutti, vengono qui e lavorano gratis a darci una mano a ricostruirlo. Questa è una cosa importante ed è anche l'unica maniera che hai per fare sentire alle persone che hanno potere sulle loro cose. Molto, molto bella questa cosa. Spero che ci sia qualche filmmaker lì in zona che magari potrebbe fare un bel documentario su. Abbiamo questa... girato tanto, stiamo continuando a girare del materiale. E vediamo, insomma, ci lavoreremo. Sarebbe in effetti interessante tirare fuori un documentario su questa cosa. Ok, un'ultima domanda che è anche un po' una mia curiosità. Adesso non so neanche che amministrazione ci sia lì a Catania, ma i politici, diciamo, gli amministratori locali, come hanno preso questa cosa? Perché pare quasi dire, voi non fate niente, la gente vi bypassa, insomma, fa quello che voi dovreste fare. Non si sono confrontati con questa cosa, hanno preferito evitare il confronto. Cosa che alla fine non ci dispiace neanche, nel senso che noi non avevamo scelto l'amministrazione come interlocutore, ma avevamo scelto i cittadini come interlocutori. Non ci aspettavamo e non ci aspettiamo niente dall'amministrazione, né tantomeno abbiamo chiesto o chiederemo l'assegnazione del posto, perché non è quello il discorso. Cosa significa? Assegnarlo a chi? A un'associazione, cioè l'ennesima assegnazione a un'associazione. Per me è fare passare l'idea che dei cittadini collettivamente possono gestire i loro spazi, al di là e a prescindere dall'amministrazione. Loro con noi non ci hanno parlato, non ci hanno minacciato, ci hanno assolutamente ignorato, cosa che a noi sta anche bene, sinceramente. Non ti ripeto, non li abbiamo scelti né chiamati a interloquire. A noi ci basta che si facciano i fatti loro come noi facciamo i fatti nostri insieme a tutti gli altri cittadini. Perfetto, sì, li capisco perfettamente, secondo me sono totalmente sperduti di fronte a un'iniziativa del genere. Bene, Cesare, noi tutti qua della radio vi facciamo i migliori auguri, purtroppo siamo logisticamente un po' lontani per poter venire a dare una mano, ma veramente è una iniziativa stupenda e, ripeto, spero non solo che abbia successo, ma che diventi un progetto pilota per tante altre strutture in Italia che potrebbero avere la stessa posso dirti che in questo senso quello che sta succedendo è, questo lo dico diciamo così a livello nazionale, noi dal Teatro Coppola comunque abbiamo inaugurato un discorso di rete insieme al Teatro Valle, alla Balena di Napoli, al Marinoni di Firenze, al Marinoni di Venezia, scusami, Sale Docks di Venezia, Lavoratori dell'Arte di Milano, e stiamo cercando proprio di costituire una rete in cui ovviamente ogni soggetto si muoverà in maniera autonoma, cercando di proprio di mettere insieme le esperienze che hanno in comune proprio questa voglia di ridiscutere la gestione dei beni comuni. E credo che è un processo che ormai è partito in Italia. Credo che di qualche giorno fa, dopo la notizia che a Padova sia stato aperto e occupato un cinema che era chiuso da tanto tempo, è una cosa molto bella che hanno fatto gli occupanti dopo 3 giorni di occupazione, è stato di dare una chiave del nuovo lucchetto al sindaco e di tenersi una per loro dicendo noi andremo lì a lavorare ogni giorno. Questi sono secondo me segnali importanti. Sono totalmente stupito da questa cosa, non ero aggiornato, io che sono di Padova purtroppo a volte credo non si riesce a seguire proprio, comunque la cronaca dei gruppi locale. Legati al Pedro o qualcosa del genere. Probabile. Bene, allora Cesare, tanti auguri ancora per questa magnifica iniziativa e speriamo di averti un giorno anche ospite qui in radio per parlare dei tuoi dischi che ci piacciono molto e che trasmettiamo sempre. Con molto piacere. Fai i nostri migliori auguri a tutte le persone impegnate in questa cosa e ti saluta Fabrizio Cammarata che è qui in studio con la chitarra pronta. Salutami Fabrizio, fatti raccontare dell'Arsenale da Fabrizio. Adesso glielo chiederò. Ciao Fabrizio. Ciao Cesare, grazie ancora. Ciao, grazie a voi, ciao. La Sicilia aveva un pazzone, sempre uguale calateni, mi sangroce e ci canta un funerale. La Sicilia aveva un governo, italiano con la furca, a Luca Pizzo e la corda dalle mani. La Sicilia è una patria, chi la stringe dalle braccia manza mai domanda pane, vinceranno e t'hanno ammazza. La Sicilia è spopolata, un deserto, ogni paese vecchi e cani, dalle sade, vinceriti, scavo 6 mesi. I picciotti sono fuori, calebranza, l'hanno sani, ma lo pace, italiano, si venire un pezzo di pane. La Sicilia è addormisciuta, dorme un sonno di morti ed aspetta, e ci dormi chi cacciassi la sua sorte. Ma la sorte non è ostia, non è grazia, di lì santi si conquista la forza dalle ghiazzi e si davanti si conquista la forza dalle ghiazzi e si va avanti. Se può cambiare. Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito.